Noi crediamo che non si debba perdere questa legislatura, che sia necessario affrontare la legge elettorale o facendo una riforma in Parlamento, ovvero consentendo che si tenga il referendum, che rappresenterebbe una buona soluzione al problema della legge elettorale, e nel frattempo si affrontino alcune emergenze, quella economica ma anche quella della spazzatura. Non è bene che la legislatura vada persa.